ho passato con mio collega, facile che abbia. Poi quando sono salito ti ho chiamato, non c'è più. Non so perché vaya, quando sono attaccato a casa. Sicuramente, temme. Sì, non è che e lo trappelli. L'altro giorno facevo un ticollare assieme a lei, voglio un po' di, insomma, un po' di stanchezza, cioè, sono più un po' scoglionato. Posso immaginare, non so solo che immaginare, ma la verità. Neanche io oggi ho avuto le mie alte, dei miei alti e bassi, lo stesso. Che è pure una cosa. Ma ce n'è sempre una nuova, un giorno che passa ce n'è una nuova, guarda. Ogni anno mi viene un altro. È proprio così, voglia di venire una, no? L'unica cosa da fare è non pensarci, pensarsi, accavolarsi tutto, esatto, ci incazziamo, ci baciamo, ci parliamo a voi, no, alla fine hanno sempre ragione loro, venuta qua. Prima e infatti, alla fine poi, riesci anche a fare quello che dicono loro, basta. Se c'è la nipote la sono tutta la nipote e basta. le cose. E non c'era, lui stava dentro un'altra parte, è passato giusto per lasciare questo capitolo, c'è. E a parte un momento che c'era a casa, adesso a casa nel senso della barra, ha detto che ci vedremo un po' domani. Gli faccio il salto domani verso l'una e mezzo, le due. Non se la trova in casa e gliela lascia. E poi mi darà la conferma per domani sera se devo passarci per dopo domani. O cosa devo fare? Tutte e tre uguali figli, non è giusto che faccia una cosa. Gli ho detto,